Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il vento è una risorsa abbondante, ma soprattutto sulla superficie del mare, dove non trova ostacoli, dove è più regolare. Il problema è che più ci si sposta verso il mare aperto, più aumentano i problemi. Intanto è più complicato trasmettere l'energia a terra e poi è molto più difficile ancorare la turbina al fondale marino. Le normali tecnologie offshore, in cui il palo che sostiene la turbina è infisso nel fondale marino direttamente, diventano infatti del tutto inutili se la profondità va oltre qualche decina di metri. Ecco da dove nasce l'interesse per individuare approcci innovativi capaci di superare questa sorta di impasse, dischiudendo l'enorme potenziale dell'eolico d'alto mare, dell'eolico d'altura. Vi vogliamo allora raccontare due di questi tentativi che proprio nelle ultime settimane hanno registrato dei bei passi avanti. Sentite. Ai primi di dicembre, a largo della costa di Agostadura, nel Portogallo settentrionale, è stata completata l'installazione di Windfloat, la prima turbina eolica offshore galleggiante. Si tratta di una turbina da 2 MW progettata per poter essere installata in alto mare, con fondale compreso tra un minimo di 50 metri e un massimo di molte centinaia di metri. La peculiarità di questa turbina è data dalla sua capacità di rimanere stabile anche in presenza di moti ondosi, correnti e venti di forte intensità. La turbina sorge su uno dei vertici della base triangolare dell'installazione, in corrispondenza dei quali si trovano 3 grandi galleggianti ancorati al fondale grazie a un sistema di cavi d'acciaio. Windfloat è stata montata sulla terraferma prima di venire rimorchiata a più di 217 miglia dalla costa, dove è stata attraccata al fondale. Con questa prima installazione, il progetto offshore entra nella sua fase sperimentale. Dopo un anno di test e monitoraggio, si procederà all'installazione di altre 3-5 turbine di potenza totale di 5 MW. L'ultima tappa prevede la progressiva installazione di turbine da 5 MW per una potenza complessiva fino a 150 MW. Il progetto nasce dalla partnership tra Principle Power Inc., sviluppatore di eolico offshore con sede a Seattle, e l'utility portoghese EDP, Energias de Portugal. Tutt'altra via, tutt'altra direzione, ma sempre in qualche modo per rispondere allo stesso problema, cioè riuscire a portare l'eolico in mare aperto, è stata individuata, scelta da un'altra società, la svedese Marine Innovation and Technology, un famoso studio di progettazione navale. Questo studio ha annunciato di aver appena installato il primo prototipo di Sea Twirl, letteralmente vuol dire mulinello marino. Anche questa è una turbina galleggiante, però ad asse verticale. Potete immaginarla così, come una di quelle fruste che si utilizzano per montare le uova, però rovesciata, girata al contrario. Ebbene, la novità principale di questa turbina d'asse verticale molto innovativa è però non tanto nel design, ma nella capacità di questa Sea Twirl di incamerare energia. In pratica, quando c'è vento in eccesso, la turbina si riempie di acqua, quest'acqua gira insieme alla turbina e accumula quindi energia come un volano. In questo modo, anche durante i cali di vento, la turbina è in grado di mantenere inalterata la produzione di energia. Sebbene il modello installato finora sia solo un piccolo prototipo, pensate che l'idea dei progettisti è di realizzare unità della potenza di 10 MW, quindi in grado di alimentare 10.000 famiglie e di immagazzinare abbastanza energia da rifornire fino a 8.000 case per un'ora anche senza vento. E ora vediamo come va invece su un altro fonte, quello dell'imitazione delle foglie. Sentite. Già la primavera scorsa, un gruppo di ricerca dell'MIT aveva presentato una nuova cella solare che imita il processo di fotosintesi clorofilliana, scindendo l'acqua nei suoi due componenti, idrogeno e ossigeno, grazie alla luce del sole. Una sorta di fotosintesi artificiale 10 volte più efficiente di quella naturale. Di poche settimane fa, invece, è l'annuncio di un altro gruppo di ricercatori, questa volta dell'Istituto Federale Svizzero della Tecnologia di Losanna, che, ispirandosi ancora una volta alle foglie, ha messo a punto dei pannelli solari verdi, pensati per essere integrati nei vetri delle finestre e specialmente nelle grandi facciate a vetri dei palazzi. Vera novità del progetto è l'elaborazione di un'innovativa tipologia di colorante a base di zinco, in grado di assorbire la luce solare e di favorirne la trasformazione in energia elettrica. Il precedente colorante, a base di rutenio, un minerale raro, non solo era eccessivamente costoso, ma anche meno efficiente. Bene, siamo all'ultima notizia di questa sera che riguarda un nuovo biocombustibile, il biobutanolo. Beh, nuovo in realtà tra virgolette, perché il biobutanolo, o meglio il butanolo, è in realtà ben noto. Si tratta di un alcol, quindi simile all'etanolo, quello che viene utilizzato normalmente mescolato con la benzina. Un alcol che però ha meno problemi dell'etanolo. Inquina di meno, rende di più dal punto di vista energetico e si mescola anche meglio con la benzina. Ebbene, il punto è, come per tutti i biocombustibili, trovare un modo per produrlo che sia sufficientemente economico, energeticamente sensato e che non utilizzi materie prime alimentari, per evitare il conflitto con l'agricoltura tradizionale che si è verificato appunto con i combustibili come l'etanolo di prima generazione. Ebbene, i ricercatori della Suomen Academia, l'Accademia di Finlandia, stanno sperimentando un modo del tutto diverso di produrre questo combustibile. Non più attraverso un processo microbiologico, cioè grazie all'opera di batteri, come si fa ancora una volta per l'etanolo, ma usando invece nuovi materiali catalizzatori e un processo di sintesi chimica che permetterebbe di convertire composti come glicerolo, metanolo e lo stesso etanolo in butanolo, oppure anche in pentanolo, che possono essere utilizzati direttamente appunto come carburanti liquidi. Particolarmente interessante dal punto di vista economico sarebbe soprattutto la produzione di questo combustibile, il biobutanolo, a partire dal glicerolo, che pensate un po' è un prodotto di scarto della lavorazione del biodiesel. Domani sera torniamo sulla fusione fredda, la vicenda dell'e-catalyzer e le reazioni nucleari a bassa energia. Buona serata.